Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, quando lo sceneggiatore di Topolino veste i panni dell'horror, Tito Faraci ci parla del suo romanzo Death Metal. Ricostruire le storie e i segreti di famiglia, incontro con Brunella Schisa, autrice di La scelta di Giulia. Nasce a Milano il Circolo dei Lettori. Oggi siamo in compagnia di Tito Faraci, ora in libreria con Death Metal, pubblicato da PM. Tito Faraci, probabilmente lo conoscerete, insomma, perché è un grande sceneggiatore di fumetti. Vi faccio semplicemente qualche nome: Topolino, un classico, Dylan Dog, Martin Mister, Lupo Alberto, Capitan America, e tra l'altro ha scritto anche già dei romanzi per ragazzi. Io non posso dire che questo Death Metal sia un romanzo per adolescenti, e adesso vi spiego anche il perché, però diciamo che è un romanzo che possono leggere forse dai 16-17 anni in su, mettiamola così, ma adesso ce lo spiegherà anche Tito Faraci. Perché ho messo questa limitazione di età? Beh, io sono una fifona fondamentalmente, quindi ho un po' paura quando leggo questi romanzi dark che quasi sfiorano l'horror. E questo Death Metal è stato definito anche da altri come un incrocio fra Stephen King e Dylan Dog. Insomma, c'è da aver paura veramente. Tito, perché hai deciso di andare, cioè so che tu sei un fan dell'horror, ok, ti piace Stephen King, ma perché hai deciso di fare un romanzo così pauroso? Per farmi spaventare? Sì, per far spaventare i lettori, perché no? A volte vengono poi anche degli amici e mi dicono: ah, ma maledetto, non ho dormito questa notte. Io dico: ecco. Ah, beh, grazie, un bel complimento, dai, non esagerare. Io dico: no, ma questa cosa non dovevi, ti odio. Io dico: dai, non dire così, che mi lusinghi. No, battuta a parte, effettivamente... questo romanzo nasce da una mia grandissima passione in generale per i generi, per la letteratura di genere, per il fumetto di genere, per il cinema di genere, in cui possono, e questo un po' unisce cose che faccio che possono sembrare molto diverse. Uno mi dice: come fai a fare un western, una commedia, un horror? Io dico: perché mi piace il racconto che ha questi canoni, queste regole, che è bello ogni tanto rispettare, ogni tanto trasgredire. E in generale l'horror mi piace moltissimo, anche perché poi, non so, per esempio uno dei miei autori preferiti che hai nominato prima è Stephen King, e in questo caso in generale ho voluto fare l'idea è stata fare un tipo di horror molto particolare, che è molto stato esplorato nel cinema e molto poco nella letteratura e tutto sommato anche nel fumetto, che è quello dello slasher, come lo chiamano, cioè quelle storie in cui dei ragazzi, solitamente un gruppo di persone solitamente giovani, finiscono nel posto sbagliato nel momento ancora più sbagliato. A volte, non so, il genere di venerdì, non aprite quella porta, venerdì 13, per me è tutta tabula rasa, naturalmente Nightmare, non ho il coraggio di leggere o di guardare quei film, insomma. Ecco, ma di solito infatti sono cose da guardare, perché di solito questo genere, lo slasher, si basa su delle morti, degli ammazzamenti strani, bizzarri, molto coreografici. Allora uno dice: in un romanzo questa cosa non ci sta bene. Allora ho pensato, insomma, è stata un po' una sfida. In realtà poi effettivamente, posso anche dire per fortuna, il romanzo è altro, non è semplicemente, se hai letto, l'hai letto, l'hai visto. Sì, l'ho letto, ho scritto anche su Twitter, non, quindi l'ho scritto pubblicamente, che mi sono spaventata. Non è solamente, nel bene né male, non è solamente una serie di ammazzamenti. Ovviamente è saltato fuori anche qualcos'altro che fosse anche la parte più assolutamente importante. Assolutamente sì, però insomma, Tito, capisci, tu per me sei Topolino, capisci? Adesso leggerti in un horror, quasi in un horror, in un romanzo nero, cioè io mi immagino che esca fuori Topolino con l'ascia e ammazzi tutti. E invece per fortuna non succede questo. Ma perché guarda che meccanismi della comicità, io ho sempre inteso Topolino come scrivere storie disneyane, come andare a esplorare a fondo la comicità. Non l'ho mai lasciata fuori neanche nelle storie più romantiche o più avventurose che ho scritto per Topolino. La comicità va a toccare delle cose molto profonde nell'animo, che sono tutto sommato vicine, come delle stanze vicine, quasi comunicanti con quelle della paura. Questa cosa io non so spiegarla bene in modo razionale, però io so che è così. Cioè so che quando lavori sull'umorismo, sulla comicità, è difficile poi spiegare, vai in una tocchi cosa, anche diciamo sì, the dark side, sì, vai in una parte profonda di te stesso, in cui da qualche parte sono i dati, anche i meccanismi, i luoghi oscuri della del paura. Resto tu avevi scritto anche, mi sembra, una raccolta Topolino Noir, ricordo bene. Ma certo, alcune delle mie prime storie, anche, beh, devo dire, anche quelle su cui sono più soddisfatto, erano state raccolte all'inizio nel 2001, adesso non mi ricordo più bene, anche se è stato un momento importantissimo nella mia carriera, uno dei più importanti, in un volume delle Einaudi intitolato Topolino Noir. Qui, allora, in Death Metal Topolino non c'entra niente, giusto l'autore, insomma, che lega queste due opere di scrittura. Andiamo un pochino sulla trama. Ci sono 5 ragazzi che fanno parte di un complesso musicale, di una band, sì, io lo dico ancora come gli anni 70, un complesso di una band musicale. Sono 4 ragazzi e una ragazza, partono dalla Puglia e devono andare in un paesino microscopico dell'Oltrepò Pavese, dove si esibirà una band che loro amano moltissimo. E tra l'altro sono stati scelti quasi casualmente per, come dire, introdurre questo concerto. Faranno la supporter ai Tiamat, che sono un gruppo che esiste davvero. L'unico gruppo che non esiste davvero fra tutti quelli nominati nel libro, e sono tantissimi, sono proprio loro, gli Snake God Hunters, che sono un gruppo che mi sono inventato per l'occasione, mentre tutti gli altri esistono, perfino quello, chissà se lo sapranno mai Tiamat, che arrivano che sono stati nominati, sì, in questo Europa, in questo romanzo, in Italia qualcuno li ha nominati, usati in un romanzo. Il death metal io lo conosco bene, quando facevo giornalista musicale era un genere che avevo molto apprezzato, che aveva anche sdoganato per certi versi il metal. È una derivazione del heavy metal. Sì, sì, è proprio la frangia più estremista, ma anche in realtà più rigorosa, più sperimentale, in cui sono venute fuori delle cose veramente molto molto interessanti che hanno fatto apprezzare il metal anche chi non lo amava. È comunque un genere estremo, violentissimo, e io ho voluto con questo romanzo cercare di fare qualcosa come un pezzo death metal, cioè veloce, duro, cattivo, violento. Uno dei protagonisti, non citato ancora, di questo romanzo, oltre a questi 5 ragazzi, è un furgone. Infatti tu scrivi: il furgone è un vecchio Volkswagen Westfalia. A dirlo suona bene. Evoca immagini gloriose e vivaci, che vanno dai grandi raduni rock degli anni 60 ai cartoni animati di Scooby-Doo. Con questo furgone, appunto, i 5 ragazzi vanno nell'Oltrepò Pavese e si perdono causa nebbia. Peraltro esiste veramente, perché questo furgone Westfalia è quello di un mio amico, che è un problema, cioè lui se l'è un po' arrangiato da solo, quindi il problema è che il motore è fatto per avere 5 marce, ce l'ha messo sopra lui, ma in realtà poi tutto il resto della meccanica me l'ha spiegato con 4 marce, quindi quando metti la quarta il motore sembra chiederti in ginocchio per pietà di mettere, sembra urlare ammazzami o metti la quinta per favore, finiamola qui. E questa cosa mi ha così divertito che l'ho infilata nel romanzo. E poi anche col furgoncino di Scooby-Doo, insomma, anche sì, lì c'era, infatti, un po'. Ma io dico sempre, il primo slasher, il primo horror che io ho visto da ragazzino sono i cartoni animati di Scooby-Doo. Il meccanismo, se vogliamo, è quello, è proprio ricalcato dagli horror che sì, andavano. Sì, perché anche questi ragazzi si perdono, certo, come spesso capita ai protagonisti di Volevo, Scooby-Doo. Volevo quasi mettere all'inizio del libro come citazione la canzoncina di Scooby-Doo. Però ho pensato che va bene, non volevo ingannare il lettore che si immaginava poi un libro molto leggero, invece si trovava invece questa cosa. Invece poi si sarebbe spaventato a morte. Che lo so, è parecchio plumbe. Allora, questi ragazzi si perdono appunto nell'Oltrepò Pavese e, insomma, fra i vari personaggi non possiamo naturalmente dire molto della trama, incontrano un simpatico signore, nel senso molto ironico del termine. A un certo punto tu scrivi: il camioncino si ferma di fianco al furgone, la portiera si apre e scende un mostro. Il corpo è quello di un uomo robusto, alto almeno 1,90 m. Il viso è quello di un bambino, con la pelle liscia e rosea. Cattivissimo questo personaggio, vero? Anche brutto da immaginare, o bello, dipende dai punti di vista, no? Sì, beh, è un personaggio anche abbastanza classico, se vogliamo, perché poi mi è piaciuto anche citare un po' dei meccanismi che uno visivamente possa riportare una certa iconografia del genere. Poi naturalmente, come faccio sempre anche nel fumetto, io entro nella carreggiata di un genere e lascio anche credere un po' il lettore che andremo in quei sentieri un po' conosciuti, e poi, insomma, mi piace anche fare delle deviazioni e proprio lo stile di un autore sta proprio, secondo me, quando si lavora nei generi, fra lo scarto, fra quello che il lettore si aspetta in maniera naturale e quello che poi effettivamente l'autore riesce a dargli. Bisogna stupire sia il lettore che l'autore, forse si deve stupire proprio anche delle pagine che scrive. Beh, devo dire, mi è capitato. Paradossalmente, lo scrittore più pigro, come una cosa che dice anche in qualche modo Stephen King, già stranominato, è lo scrittore più pigro, anche se sembra più laborioso, quello che rispetta molto fedelmente la scaletta che si è fatto, mentre quello che ha voglia di si lascia sorprendere. Sì, quello che ha voglia di faticare di fronte a una strada che si apre improvvisamente, non dice oh no, devo tornare indietro, sistemare tutto, chissà, prova a seguirla. Prova anche a buttare tutto all'aria, anche se sa che sarà una fatica in più, e questo l'ho fatto. In questo romanzo death metal ci sono anche scene di violenza, insomma, non è un romanzo per mammolette, mettiamola così, succedono delle cose, ci sono anche dei morti. Tecnicamente questo è un romanzo definito young adult, cioè dai 14 anni in su. All'inizio di questa intervista io ho detto, beh, forse bisognerebbe averne qualcuno di più di anni per poter affrontare un romanzo del genere. Tu, che conosci comunque molto bene i lettori di quella fascia di età, sia per i fumetti che per i romanzi che hai scritto, secondo te da che età in poi può essere letto? Ma devo dire che a un certo punto in questo romanzo, ancora di più nel precedente, oltre la soglia, mi ero un po' preoccupato di questa cosa, però ho subito sgomberato la mente da questo aspetto, da questo problema. Uno ne ha già tantissimi mentre scrive, delegandolo giustamente al mio editore, a come avrebbe posto il libro, che tipo di copertina avrebbe fatto, che tipo di promozione, che finora è stata adeguatissima. È una storia di ragazzi che racconta, è un tema che a me interessa moltissimo, l'adolescenza come un momento, l'adolescenza, poi questi ragazzi insomma guidano anche un furgone, ne sono appena usciti, diciamo, sì. Però racconta un momento della gioventù, chiamiamolo così, come un'epoca molto dura, ma anche violenta, che poi magari nella vita tu ricorderai come bella, però quando ci sei dentro, insomma, è davvero di sofferenza, di trasformazione del corpo, di confronto con il proprio corpo, e quindi anche la violenza entra come tema di confronto anche molto duro con chi è già più adulto. E questo romanzo in qualche maniera esplora anche, torna sul tema di quanto sia difficile il rapporto fra il mondo degli adulti fatti e quello dei ragazzi, come molte volte gli adulti odiano i ragazzi. È bruttissimo dirlo, ma è terribilmente vero, cioè non che ci sia sì, qua ci sono degli adulti che odiano appunto questi bambini e poi i ragazzini, poi quindi fascia di età? Fascia di età dipende dalle persone, naturalmente io lo vedrei leggere un dodicenne senza farmi problemi, sapendo che tipo di dodicenne è, e magari mi preoccuperei di fronte a una persona come me che a 44 anni si è spaventata. Più caduta, se la so molto sensibile, no, non lo nego, sappiatelo, questa cosa che sto per dire, sono sicuro che terrà lontano qualche lettore e magari invece farà correre qualcun altro. Il romanzo, sì, io l'ho scritto cercando di disturbare, di fare paura, non solo la paura, ma anche di creare una sensazione in alcune parti di fastidio, di orrore. E questa sensazione, al di là di che il romanzo piaccia o meno, questo non sta a me dirlo, però effettivamente, insomma, i lettori l'hanno provata e ha funzionato. Mi sono fatto male io stesso, ho scritto cose che io stesso avrei in un certo senso faticato a leggere, ma avrei voluto andare avanti a leggere. E quindi avviso gli eventuali lettori, oppure chi, sapendo questo, fuggirà e avrà tutta la mia comprensione, che nel romanzo ci sono scene molto violente, molto duro, molto plumbe, questo termine. E non diciamo altro. C'è anche tutto un discorso sul ricordo che viene fatto in questo romanzo, perché il ricordo ha un peso importante, soprattutto per uno dei personaggi che rivive un po' il suo passato. Sì, certo, il romanzo poi, ecco, questa siamo nella parte in cui si esce dal canone, in realtà poi parte subito su due binari che sembrano scorrere paralleli e poi finiscono anche ineluttabilmente, non rovina una sorpresa per incrociarsi. E il binario di cui abbiamo già parlato è quello della storia di questi ragazzi in un arco di ore abbastanza limitato, che finiscono, si perdono nella nebbia e finiscono nel posto sbagliato. E poi c'è un altro arco narrativo che invece si sviluppa su anni, che è la storia di un personaggio nel passato, che è poi evidente fin dall'inizio, è uno dei ragazzi, ma soltanto a un certo punto del romanzo scopriremo quale, che ha avuto un destino di dannazione, che ha avuto un'infanzia segnata dalla violenza, dalla lotta per sopravvivere, dal male davvero violentissimo, e poi da una figura di uno zio. Che l'ha martoriato e incombe su di lui anche adesso. E queste due storie, è evidente, perché altrimenti non si troverebbero nel stesso libro, sono destinate fatalmente a convergere. Grazie a Tito Faraci, ora in libreria con Death Metal, pubblicato da PM. Prima citavamo Stephen King, lo scrittore horror più famoso al mondo. Lui ha annunciato che nel 2014 usciranno 3 nuovi libri, naturalmente in lingua inglese, insomma, nella sua lingua. A giugno, Mercedes, un giallo con protagonista uno strano automobilista. Nella seconda metà dell'anno invece arriveranno Revival e Turn Down the Lights. In italiano invece ricordiamo che The Doctor Sleep, ossia il sequel di Shining, uscirà a gennaio, appunto, in Italia per Sperling e Kupfer. Per quanto riguarda comunque tutte le novità, diciamo, librarie dei romanzi della narrativa 2014, vi do appuntamento alla prossima puntata del Cacciatore di Libri, cioè sabato prossimo, come sempre, alle 22.05. Parleremo, fra gli altri, dei ritorni di Wilbur Smith, di Ken Follett, che chiude la sua trilogia sul Novecento, poi tornerà ancora in quest'anno Haruki Murakami, Elise Monroe, Fresca di Nobel, Patricia Cornwell, per gli italiani, Andrea Camilleri, Stefano Benni, insomma, parleremo di tutte queste cose sabato prossimo, sempre nel Cacciatore di Libri, alle 22.05. Veniamo ora a un altro libro, si intitola La scelta di Giulia, pubblicato da Mondadori, ed è il nuovo romanzo di Brunella Schisa. Brunella Schisa ha voluto fare un romanzo in molti sensi autobiografico, come sentirete anche nell'intervista. L'ha ambientato a Napoli. La protagonista è una ragazza, Emma, che un giorno riceve una strana telefonata da un'anziana prozia, Carolina. Lei la conosce pochissimo, eppure questa donna anziana la invita a casa sua e le dà un regalo molto prezioso, un anello di famiglia. Da qui inizia poi tutto un percorso di ricostruzione nella storia di questa stessa famiglia. Ecco allora come l'autrice Brunella Schisa descrive la sua protagonista. Emma è una ragazza confusa, perché a 23 anni si è laureata e non ha la più vaga idea di quello che vuole fare nella vita, perché ha solo studiato, le piace studiare, e l'idea che invece deve fare il salto, entrare nella vita di lavoro, non sa cosa sia. Va anche detto che sono gli anni Ottanta, quindi all'epoca, diciamo, non era così drammatica la ricerca di lavoro, però il problema drammatico era la confusione mentale che si aveva. E quindi annaspa, è in crisi con il suo ragazzo, crede, immagina di essere innamorata del suo professore con cui si è laureata, quindi è confusissima. È estate, fa molto caldo, e quando questa prozia la chiama per dire: ho un dono per te, perché ti sei per il buon esito, per il 110 e lode, e le regala questo anello che apparteneva alla bisnonna di Emma, Giulia. È un regalo talmente bello per Emma che, visto che non ha nulla da fare per l'estate, accetta la proposta della zia di mettere le mani in ordine le carte della sua famiglia di cui lei ha orecchiato le cose ma non sa nulla. Emma è sicuramente stupita di questo regalo sproporzionato rispetto anche al rapporto che ha con questa prozia, però accetta di buon grado di, appunto, di mettere ordine fra questi appunti, fra le vecchie lettere, le fotografie. Da qui inizia il romanzo, che è poi un viaggio attraverso la storia della famiglia, che prende dalla fine dell'Ottocento fino, diciamo, quasi ai giorni nostri. Con che spirito Emma inizia questa ricerca? All'inizio è disperata in qualche modo, perché tanto non ha nulla da fare, però vede queste fotografie ingiallite, queste piccole delle immagini che sono confuse, color seppia, di gente sconosciuta, dice: ma io dove mi sono infilata, in quale trappola mi sono infilata? Una noia terribile, perché poi lei è una ragazza giovane, sono carte dell'Ottocento o degli inizi del secolo, e quindi non si sente a suo agio, e incomincia però a capire che c'è qualcosa di strano in questa famiglia, e soprattutto questa prozia, che è molto forte, è una personalità molto forte, la maltratta anche, e lei vuole fare buona figura con la prozia, e quindi poi si mette di buzzo buono, in qualche modo cerca di fare il suo lavoro. Il romanzo illumina, appunto, la storia di diversi personaggi nel corso degli anni. La voce narrante è Emma in prima persona, e poi in terza persona si racconta la storia, appunto, degli antenati di Emma. Si attraversa anche un po' la storia d'Italia, perché c'è la fase colonialista, per esempio, in Africa, la guerra. La cosa, diciamo così, interessante è che le figure maschili, ma viene proprio detto nel romanzo, sono tutte forse non meno interessanti, ma ecco, si dice che gli uomini sono tutti dei donnaioli, per esempio, e le donne sono quelle a cui è stato spezzato il cuore. È un dato di realtà per la cultura dell'epoca o c'è una critica sociale? C'è sicuramente una critica sociale, ma è facile farla nel 2000, la critica sociale. Il problema è che queste donne vivevano con degli uomini che le tradivano bellamente e non potevano ribellarsi, non c'era la possibilità di ribellarsi. In più dovevano tenere salda la famiglia, quindi erano anche donne forti, donne che dovevano drizzare la schiena, con il cuore spezzato, ma la schiena dritta, dovevano andare avanti. Per gli uomini era sempre è tutto più facile. Emma a un certo punto dice che una sua zia a sua volta le ha detto che indagare sulla storia della propria famiglia significa crescere. È veramente così questa affermazione? Siccome confesso che il romanzo è un po' autobiografico, io devo dire che pur avendo una età mi ha aiutato anche a crescere, nel senso che io sono convinta che sapere da dove si viene aiuta a capire dove si vuole andare. È successo anche a me, che sono una donna più che matura, e quindi io penso che bisogna indagare e bisogna il più possibile sapere da dove si viene, e quindi saccheggiare la memoria delle persone che hanno la possibilità di raccontarti queste storie. Nel romanzo c'è anche un segreto che è legato a quest'anello e al passato delle donne e degli uomini di questa famiglia. Anche tu, nel fare la tua ricerca personale sulla tua famiglia, hai trovato qualcosa che ti ha così stupito? Sì, devo dire che mi sono scoperta una vera moralista, non pensavo di essere, perché in certi momenti mi sono davvero scandalizzata, e quindi sì, ho fatto delle scoperte e devo dire che il romanzo storico, il divertimento, perché diciamo che questo è un romanzo di formazione e anche un romanzo storico, il bello del romanzo storico è proprio la ricerca, ma ricercare appunto su quella che è stata una famiglia napoletana nel Novecento e a partire dal 1870 è un lavoro molto affascinante, ma ancora di più cercare sui propri antenati, e devo dire che è stato in certi momenti scioccante. Nel titolo c'è Giulia e il libro è dedicato a Giulia, che è una persona vera della tua vita. Eh sì, in famiglia si chiamano tutte Giulia. La mia bisnonna si chiamava Giulia, che è la capostipite di questa famiglia terribile, e Giulia è la sorella di mia madre, la cui memoria ho saccheggiato, e quindi mi sembrava proprio il minimo che potessi fare dedicarle il romanzo. Nasce a Milano il Circolo dei Lettori, effettivamente qualcosa che mancava. Sappiamo, a Milano ci sono moltissime iniziative culturali, tante librerie che ospitano gli scrittori, ma mancava un punto di riferimento. Nasce quindi questo Circolo dei Lettori, inaugurazione lunedì 13 gennaio alle 18, quando sarà presentato in esclusiva nazionale il libro Il Testamento di Maria di Colm Tóibín, lo scrittore irlandese forse più importante fra quelli contemporanei. Ricordiamo alcuni suoi romanzi pubblicati in Italia: Sud, The Master, Madri e figli, Fuochi in lontananza. Parliamo della nascita di questo Circolo dei Lettori con Laura Lepri, che è un editor indipendente e che è una delle ideatrici, fondatrici di questo Circolo dei Lettori, che viene realizzato in collaborazione con la Fondazione Pini. E questo Circolo dei Lettori milanese avrà sede proprio nella sede della Fondazione Pini in corso Garibaldi 2. Allora, Laura Lepri, che cos'è questo Circolo dei Lettori? Allora, la prima cosa che tengo a dire è che il Circolo dei Lettori di Milano nasce un po' per filiazione naturale dai corsi di scrittura narrativa che a lungo ho tenuto e continuo a tenere a Milano, quest'anno proprio, da quest'anno alla Fondazione Pini stessi. Chi vuole scrivere non può non saper leggere molto molto bene, molto approfonditamente, quindi questo è uno dei primi motivi per cui ho pensato che era necessario un circolo dei lettori anche per chi volesse scrivere. Dopodiché era una presenza che non c'era ancora a Milano e forse se ne sentiva il bisogno. Si sentiva il bisogno, secondo me, data l'enorme offerta in libreria, di creare dei percorsi e dei raggruppamenti di incontri a tema, o che disegnassero delle mappe di lettura, perché ho l'impressione che i lettori abbiano un gran bisogno di orientamenti in questo momento. Che cosa si troverà venendo al circolo dei lettori? Allora, una proposta alla quale tengo moltissimo si intitola Conversazioni fra amiche che leggono, ed è rivolta prevalentemente a quelle che sono i lettori forti, quelle che sono, cioè le lettrici, quelle che comprano i libri, e lì si vanno a riscoprire grandi scrittrici del passato, ma anche del secolo appena trascorso. Le prossime proposte sono appunto Dorothy Parker, Jane Austen e Natalia Ginzburg, ognuna delle quali attraversate da un tema. Anche questa è una cosa specifica, non si legge una scrittrice così vagamente, ma la si legge attraverso un tema proposto. Jane Austen attraverso un titolo che è Un matrimonio a tutti i costi, Dorothy Parker attraverso un tema che è La rabbia delle donne, e Natalia Ginzburg attraverso un tema che recita Le parole dette in famiglia non si dimenticano. E questa era Laura Lepri, ideatrice appunto del Circolo dei Lettori di Milano in collaborazione con la Fondazione Pini. Tra l'altro, se volete insomma trovare tutte le informazioni su questo circolo, potete andare sul sito lauralepriscritture.com. È il momento di scoprire l'anticipazione del domenicale del Sole 24 Ore domani in edicola. Armando Massarenti, di che cosa si parlerà fra le altre cose? Ma scegliamone una sola, una molto preziosa. Raffaele La Capria, il grande scrittore napoletano, che esce con un'edizione raffinatissima dei quattro quartetti, raffinata sia perché è una traduzione fatta da lui e fin dal 1945 si esercita su questo capolavoro della letteratura mondiale, che sono appunto i quattro quartetti di Eliot, e raffinata anche perché è un'edizione preziosa, un po' da bibliofili, ed è proposta dall'editore Damiani, editore Enrico Damiani. Ecco, noi proponiamo un pezzo, un'analisi veramente molto sottile di questa traduzione, con numerosi esempi, con numerosi versi presi dall'opera, dal nostro critico Filippo Laporta, che ci riporta appunto al 1945, quando un giovanissimo La Capria inizia questo incontro con dei versi che sembrano metafisici, sembrano in parte appunto, come spesso sono stati tradotti in italiano, qualcosa di lontano. Lui li riporta invece in questa traduzione rivista completamente oggi, quindi pubblicata oggi, ad una quotidianità, ad una sorta di correlativo oggettivo di cose quotidiane, di oggetti consueti, affettivi, che riporta la poesia nella quotidianità. Grazie Armando Massarenti, responsabile del Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, domani in edicola. Ed è tutto anche per questa puntata del Cacciatore di Libri, grazie in regia a Filippo Aureggi. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate d'archivio su www.radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.